129 operaie gridavano, scioperavano nel marciume terribile della cotton newyorkese. "129 donne imprigionate, arse vive dall'inquisizione feroce della cotton newyorkese. L'8 di marzo del 908, Rosa, la tua bandiera, per lei lottasti fino alla morte, da donna, vera." In occasione dei 30 anni di occupazione del CSO Ricomincio dal Faro, 1987-2017, venerdì 10 marzo, ore 20:30, presso il CSO Ricomincio dal Faro, via del Trullo 330, proiezione di Rosa Luxemburg di Marguerite von Trotta, ingresso a sottoscrizione libera per Radio Onda Rossa, a seguire dibattito e apericena.